E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori. Abbiamo aperto la seconda parte della trasmissione con un splendido lavoro di Lawrence Butch Morris, grande compositore e anche maestro in questa nuova forma di conduzione, di maestro d'orchestra, diciamo, su improvvisazione, dunque su orchestre improvvisative che si basano appunto su una conduzione attraverso dei segnali della mano, del braccio, che appunto lo stesso Butch Morris utilizza quasi appunto come una bacchetta, in una forma sicuramente estremamente fisica e gestuale, connessa anche a tutta una serie di gestualità e di fisicità tipiche anche della musica afroamericana. Lawrence Butch Morris, musicista e compositore che abbiamo anche potuto apprezzare lo scorso anno ad Angelica, nel festival appunto organizzato qua tra Bologna e Modena, in un concerto sicuramente importante al Teatro Comunale di Modena, sempre appunto in questa ottica orchestrale. In questo particolare lavoro Lawrence Butch Morris nel 2008 costituisce questa Nublu Orchestra e elabora questo splendido lavoro intitolato Sketches of New York City, appunto un 12 pollici uscito nel 2008, dove appunto il musicista elabora tutto un discorso connesso anche alla musica elettronica, si sentiva appunto inserimenti e suoni elettronici misti poi a situazioni e a strutture improvvisative con strumenti elettroacustici in una costruzione assolutamente innovativa e estremamente futurista. E su questo appunto ritorniamo sul tema di stasera per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso. Adesso di 451 frammenti sonori, stasera abbiamo dedicato la puntata all'afrofuturismo fra jazz cosmico e jazz d'avanguardia, le origini e il futuro. Afrofuturismo, ricordiamo velocemente appunto questa corrente di pensiero, qualcuno appunto la definisce anche la diaspora africana, un movimento che è nato a metà degli anni 90 sull'onda del romanzo Black to the Future, Afrofuturism 1.0 del critico Mark Derry, che appunto porta avanti questo discorso connesso alla fantascienza, ma poi collegato ovviamente anche alla musica, alla poesia e a tutte le forme artistiche che vedono impegnata la popolazione afroamericana per superare questa condizione di mezzo che si è venuta a verificare tra gli anni 70 e gli anni 90, dopo appunto l'aver superato o tendenzialmente o diciamo mediaticamente superato il passato di schiavitù, di segregazione razziale, ed immaginare però appunto di superare questa condizione di mezzo, questa condizione sospensiva, per pensare, immaginare un futuro di una rinnovata coscienza nera, di una trasformazione ovviamente sociale delle condizioni sociali ancora presenti di segregazione e di riappropriazione di un'identità che è stata completamente negata. E su questo si sono mosse soprattutto questi saggi e questi romanzi di fantascienza che hanno utilizzato ovviamente la metafora fantascientifica per portare avanti il discorso e le ghettizzazioni e le difficoltà ancora presenti della società afroamericana all'interno soprattutto ovviamente della società statunitense, e da qui sono nati appunto anche i collegamenti con la musica elettronica e con la musica d'avanguardia, e da lì appunto i riferimenti da Hendrix fino a Miles Davis, a Sun Ra, George Clinton, Africa Bambaataa appunto nel discorso elettronico degli anni 80, ma anche appunto i musicisti come Paula Sanders, John McPhee, che appunto è uno degli autori musicisti che fa parte di questo movimento nato negli anni 90, e abbiamo attraversato poi anche con l'ultimo brano assolutamente meraviglioso come atmosfere sonore di David Ware del 2003, che appunto chiudeva la prima parte della trasmissione. E da qui appunto ripartiamo, abbiamo ascoltato questo splendido lavoro appunto in un'ottica futurista di Lawrence Butch Morris, tra fusione tra elettronica, musica tribale, improvvisazione e anche una certa musica contemporanea che attraversa le composizioni dello stesso Morris, e sicuramente si può affrontare anche il discorso connesso alla modernità della musica afroamericana con tutto il discorso legato alla sperimentazione musicale, proprio nell'uscire anche da certi stereotipi e da certi linguaggi che vengono appioppati in maniera quasi macchiettistica ancora alla popolazione afroamericana, e in questo senso la sperimentazione, la ricerca sonora di musicisti che già nella prima parte abbiamo ascoltato, che ascolteremo in questa seconda parte, è uno strumento per liberare ulteriormente la popolazione afroamericana e per appunto riprendersi quell'identità e quella capacità di espressione, di ricerca artistica e non solo, che comunque continua a essere negata in un meccanismo di potere bianco ancora ben presente nella società americana, ma anche appunto in un'ottica di classe connessa appunto al controllo capitalistico che lo stesso movimento afrofuturista affronta in maniera molto chiara, mettendo in luce ovviamente tutte le contraddizioni ancora presenti nella popolazione afroamericana, nella appunto società statunitense. Da qui siamo ripartiti con questo lavoro del 2008 in un'ottica appunto più legata ai nostri giorni con Butch Morris, e adesso invece facciamo di nuovo un salto indietro e troviamo un altro personaggio che attraverso il suo quartetto, il suo collettivo musicale, aveva abbracciato pienamente tutta una serie di battaglie sociali e politiche, anch'esso connesso a certe problematiche, a certe rivendicazioni della Black Panther. Lo stesso disco parla in maniera molto chiara: Unity, uscito nel 1974, Unità appunto della popolazione afroamericana. Un disco estremamente avanzato, dove appunto l'aspetto free jazz è comunque attraversato ovviamente anche dal jazz d'avanguardia, ma i due termini poi si sovrappongono, in un disco estremamente potente, energico, dove appunto il free più esplosivo, più animale, più bestiale, più aggressivo, riprende appunto quella caratteristica tipica, quell'orgoglio, quell'orgoglio della negritudine che aveva attraversato gli anni 60-70, che è un punto focale che viene ribadito appunto dal movimento afrofuturista come punto di partenza in un'ottica futura. È un movimento che vorrei puntualizzare, estremamente aperto dal punto di vista appunto espressivo, artistico e musicale, e i riferimenti, i musicisti anche che seguono questo movimento e stanno dentro questo movimento, fanno parte di diciamo ambiti musicali, di linguaggi, di espressività anche molto distanti, ma in realtà accomunate da questo principio comune che attraversa tutti questi musicisti. Dunque si passa veramente da fenomeni connessi alla dance, anche a tutta l'area della musica tecno di Detroit, fino ad arrivare appunto all'elettro, alla sperimentazione, all'avanguardia, al funk, al soul. Dunque tutto l'universo dell'espressività e della musicalità afroamericana. Questo è estremamente importante, senza definizioni, senza distinzioni, senza appunto atteggiamenti preclusivi o elitari a seconda appunto del linguaggio che viene scelto. Dunque un ambito estremamente aperto che vive in questo senso un collegamento chiaro con le origini, appunto gli anni 60-70, fino ad arrivare ai nostri giorni e al cosiddetto futuro, a questa ipotesi a cui si vuole appunto tendere come movimento musicale, artistico e letterario. Andiamoci a sentire dunque Frank Wright Quartet da Unity, un disco splendido. Ascolteremo questo brano che è un vero e proprio flusso di energia, un free assolutamente dirompente ed energico. Dunque ripartiamo dal 1974, facciamo un salto dunque dal 2008 di parecchi anni, ma il filo rosso continua e faremo una sorta di ping pong continuo fino alla fine della trasmissione in termini temporali. Frank Wright Quartet. We'll be right back. We'll be right back. Siamo rientrati in diretta, purtroppo abbiamo dovuto sfumare questo brano che è estremamente devastante, userei il termine, energia pura da parte di Frank Wright Quartet, Unity 1974 al disco, un brano che è effettivamente estremamente lungo, dunque abbiamo ascoltato, diciamo, un estratto di questo flusso sonoro assolutamente tempestoso, una corrente, un'adrenalina pura da parte di Wright con gli altri tre musicisti del suo quartetto, Frank Wright appunto musicista che ha lavorato anche con grandi del free jazz come Ornette Coleman, ma ha lavorato anche con il grandissimo Albert Tyler, Cecil Taylor, musicista che è cresciuto con questi grandi maestri, ha fatto parte appunto dei loro quartetti, dei loro progetti, fino ad arrivare poi ai progetti che lui stesso ha costruito negli anni 70, dopo la sua esperienza negli anni 60 con questi grandi musicisti. Musicista che poi è andato avanti fino agli anni 90, fino fondamentalmente al 90, purtroppo la data in cui è morto nel 1990, addirittura in Germania, dove si era trasferito da alcuni anni. Da Frank Wright Quartet andiamo a trovare il musicista, diciamo che insieme poi a un altro autore che abbiamo spesso anche trovato e attraversato all'interno di altre puntate di 451 frammenti sonori, è il musicista, tra virgolette, bianco all'interno di questo percorso di stasera, ma è un bianco abbastanza tipico, nel senso che ha lavorato con tantissimi musicisti afroamericani e ha portato avanti un linguaggio che comunque si è dialettizzato dentro la dimensione della comunità afroamericana. Parliamo di Daniel Carter che ha lavorato appunto con lo stesso David Ware che abbiamo ascoltato nella prima parte, ma anche William Parker, per arrivare poi anche a collaborazioni con un altro batterista molto importante della scena jazz come Bob Moses, musicista che appunto è cresciuto negli anni 70, ma che ha portato avanti con estrema capacità anche dei discorsi musicali molto aperti, con delle contaminazioni anche con la musica contemporanea, connesso ovviamente alle forme più avanzate di jazz, anche negli anni 0, negli anni 90. E appunto dagli anni 0, dal 2003, abbiamo pescato questo disco che è considerato uno degli dischi più interessanti della scena jazz sperimentale d'avanguardia degli anni 0, ed è Language, dove appunto si contaminano varie dimensioni, varie atmosfere, appunto varie attitudini, oltre che ovviamente anche strutture sonore che si attraversano e sono legate appunto ad ambiti differenti. Si sente in questo disco elementi da elettronica, musica contemporanea, jazz sperimentale, elementi estremamente variegati che si intrecciano e creano un disco sicuramente molto interessante. Da Language abbiamo estratto un brano che riesce bene anche a connettersi per certe sonorità e per certe strutture anche al lavoro che abbiamo ascoltato e che abbiamo ancora in sottofondo, anche se l'energia è spostata verso un altro tipo di orizzonte, verso un altro tipo di atmosfera, ma c'è sicuramente un richiamo rispetto anche alle origini appunto del movimento afrofuturista di cui stiamo trattando stasera. Ce l'andiamo dunque a sentire un frammento appunto di questa traccia estremamente interessante di Language 2003, Daniel Carter. Thank you. Thank you. face, tingling in my soul. Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix con il lavoro di Daniel Carter, Language 2003, con un salto molto molto molto arretrato. Dal 2003 siamo arrivati al 1970, abbiamo trovato un personaggio che rappresentava ulteriormente un altro elemento di rivendicazione appunto del movimento afroamericano degli anni 70, si faceva chiamare appunto, riprendendo il suo nome, diciamo la sua definizione africana, Kalaparusha Difta, cioè Maurice McIntyre, ma molti di questi musicisti all'epoca riprendevano appunto il loro riferimento, diciamo del nome legato appunto alla terra d'origine, all'Africa, piuttosto che appunto i nomi inglesizzati, anglofoni, riportati appunto negli Stati Uniti d'America, appunto quasi come riferimento a tutta la dimensione della schiavitù. E in questo è interessante anche andare a riprendere determinate affermazioni appunto dell'ideatore di questo movimento, cioè Mark Derry, che utilizzando soprattutto delle frasi di alcuni romanzi di Delaney e Butler, appunto connessi soprattutto all'idea fantascientifica dell'Apocalisse, come appunto mondi sopravvissuti a una catastrofe di identità negate, e una delle frasi più interessanti, appunto, dove veniva identificato il robot come lo schiavo deportato e oppresso da un bianco alieno, rapitore ed oppressore, e l'astronave è la nave negriera che solca un cosmo, l'oceano Atlantico. Questo era il riferimento molto netto, appunto, connesso a tutta la narrativa fantascientifica di scrittori afroamericani che utilizzavano appunto questa metafora per riportare il discorso all'identità appunto negate, alla deportazione, alla schiavitù connessa alla popolazione afroamericana. E in questo appunto il collegamento appunto con quest'autore americano, Kalaparusha Diftha, che in questo disco che abbiamo associato a Daniel Carter rappresenta fortemente tutto il movimento degli anni 70, uscito nel 1970, appunto, intitolato Forces and Feelings. Abbiamo ascoltato un brano di questo splendido lavoro di questo musicista di Chicago che ha collaborato con grandi musicisti dell'epoca, ma Maurice McIntyre non ha bisogno sicuramente di presentazione perché anche lui è un musicista estremamente importante di quel periodo, musicista appunto che abbiamo voluto collegare per fare appunto come al solito il rimando tra gli anni 0 e gli anni 70 in questo caso. E continuando in questo percorso musicale andiamo a trovare un musicista nero di ultima generazione, un lavoro uscito nel 2009, Whit Dickey, che lavora ed è molto dentro questo discorso connesso al movimento futurista, e in questo lavoro Emergence rappresenta per la Not Chew Records un percorso musicale estremamente interessante, dove il jazz o comunque il linguaggio jazz si contamina estremamente fortemente con la musica contemporanea. E adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che appunto rappresenta bene questa dialettica fra questi due mondi che si sono spesso attraversati, soprattutto scusate, attraverso gli anni 70. Si vede che l'ora mi porta il rospetto fuori, stranamente, anche se stasera avevo fatto abbastanza attenzione, però purtroppo torna fuori, le sigarette danneggiano parecchio in questo. Ritornando al punto, appunto, Dickey con Emergence rappresenta bene questa coniugazione fra questi linguaggi che sono in realtà molto vicini, che appunto musicisti africani e afroamericani spesso sono riusciti a trovare appunto questo incontro nel linguaggio tra musica black, connessa soprattutto stasera. Abbiamo centrato il discorso col jazz d'avanguardia e con il jazz cosmico, soprattutto nella prima parte, connessa appunto con il linguaggio della musica contemporanea. Ce l'andiamo ad ascoltare e ci avviamo ovviamente verso la fine di questa trasmissione, che ha voluto, diciamo, dare dei contributi, dei frammenti connessi a questo movimento come spunto e come riferimento, ma che potremmo anche riprendere come discorso, connettendosi anche a tutta un'altra area che stasera non abbiamo affrontato, che questo movimento appunto ha voluto rimarcare, tutta la musica connessa all'elettronica, soprattutto quella legata al movimento elettro, ma anche connesso al techno di Detroit, fino ad arrivare alle punte più avanzate anche dell'hip hop. Ma sicuramente avremo occasione in futuro anche di affrontare e di ricercare in maniera particolareggiata anche questo ambito. Stasera ci siamo voluti soffermare rispetto appunto al jazz cosmico e al jazz d'avanguardia. Andiamoci a sentire dunque Whit Dickey da Emergence. Thank you.

Siamo ritornati in diretta e dopo questo splendido brano tratto appunto da Emergence di Whit Dickey ci avviamo verso la fine della trasmissione, un lavoro questo appena uscito alla fine del 2009 e chiudiamo con un disco che è di 10 anni prima e di un grande in assoluto, uno dei musicisti più interessanti della scena musicale di questi ultimi 20 anni, ma è un musicista che comunque ha calcato la scena già da parecchio tempo, insomma, non è un novizio dal punto di vista musicale, ma è un musicista che ha attraversato tutta la scena dell'avanguardia in maniera assolutamente unica dal punto di vista compositivo e anche le atmosfere che ha creato negli anni sono sicuramente molto molto importanti. Parliamo di un musicista che è cresciuto già negli anni 70 dal punto di vista musicale, ma che ha avuto una grande capacità di mantenersi sempre con delle punte molto avanzate anche appunto in questi ultimi 20 anni. Musicisti che poi in molti casi hanno avuto la loro massima espressività appunto negli anni 60-70 e poi nel ventennio successivo si sono anche un po' persi, hanno perso quella carica di innovazione, di sperimentazione che era anche figlia di un periodo storico estremamente stimolante, estremamente ricco. Lui invece è riuscito sempre a mantenersi molto aperto e ha costruito con la sua esperienza, soprattutto all'interno della spontanea musica Sambal, che ha attraversato in alcune occasioni il percorso di 451 frammenti sonori, ma ha anche lavorato con il grande Derek Bailey e con altri musicisti poi anche più giovani che hanno attraversato appunto l'ultimo ventennio musicale. Parliamo di Evan Parker che ha lavorato anche con un'etichetta che spesso ha attraversato questa trasmissione, la Zadig, con progetti anche estremamente differenziati sul piano musicale, collaborando con grandi musicisti come John Edwards, John Russell e anche autori che uscivano dall'ambito squisitamente jazzistico, nell'ambito dell'improvvisazione radicale, del free e dell'avanguardia jazzistica. E abbiamo tratto, diciamo, un disco sicuramente interessante con un suo progetto parallelo, Electric Acoustic Ensemble, appunto del 1999, Toward the Margins, il disco che appunto l'idea nostra appunto è quella di chiudere in questa maniera con un quacervo di sensazioni, di sonorità e di strutture che possono riportare il discorso in chiusura, anche se poi in realtà è anche un'altra ulteriore apertura per un'altra trasmissione del futuro. In quest'ottica, connessa appunto al movimento afrofuturista, che indiscutibilmente ha dato uno stimolo interessante a tutta un'area musicale, artistica, intellettuale, sicuramente potrà essere uno spunto anche per affrontare altri riferimenti che lo stesso movimento ha voluto dare, dalla musica elettro alla musica techno, per arrivare anche alle forme più avanzate di hip hop, dunque tutto quello che riguarda il discorso più connesso tra virgolette, la definizione di dance avanzata, di dance ricercata, connessa alla popolazione afroamericana, soprattutto quella che ha attraversato gli anni 80 e 90, ma anche i giorni nostri. Ricordare personaggi come DJ Spooky o anche musicisti che hanno attraversato appunto tutta l'area della techno di Detroit per arrivare a un hip hop avanzato che abbiamo anche affrontato nel passato all'interno di 451 frammenti sonori. Anche la nostra attitudine è sempre stata molto aperta, legata appunto al discorso della musica sperimentale, come d'altronde in un'ottica più connessa al movimento afroamericano hanno voluto fare gli esponenti appunto di questo movimento che stasera abbiamo considerate, abbiamo cercato di affrontare, di approfondire nelle sue tematiche, nei suoi autori, nei suoi esponenti. Adesso dunque chiudiamo con questo disco, ripetiamo ancora, di Evan Parker con l'Electro Acoustic Ensemble, Tour of the Margins 1999. Chiudiamo così e dunque ci ritroviamo poi ovviamente per domenica prossima con il buon Max Machia che condurrà la trasmissione, dunque in mia assenza, e ovviamente sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo 451 Frammenti Sonori. Buonanotte. Thank you.